Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. L'Italia da oggi libera dal lockdown, via gli spostamenti tra le regioni e arrivi anche dall'Europa, ma l'Austria tiene chiuso il confine. Effetto Covid sull'occupazione, l'Istat ad aprile segnala la perdita di quasi 300.000 posti di lavoro. Stati Uniti, nono giorno di protesta per la morte di George Floyd, 200 arresti solo a New York. Vaccino italiano, accordo tra la Takis e la Rat Farm, primi test sull'uomo in autunno. Buongiorno da Alessio Maurizi dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. È al centro di questa giornata oggi gli spostamenti, la libertà ritrovata di spostamenti tra le regioni con treni, aerei, auto. Tra poco faremo il punto su come è andata, su come sta andando. Oggi pomeriggio ci sarà anche il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a sottolineare questo passaggio, l'avvio alla quella che diventa a tutti gli effetti una fase 3 caratterizzata appunto dal recupero totale della libertà di spostamento per i cittadini, l'addio all'autocertificazione, fermi restando i divieti di assembramento e di contatto ravvicinato con tutte le persone che non siano congiunte. L'Italia comunque riparte definitivamente, sentiamo. L'Italia può rimettersi in movimento grazie ai sacrifici fatti nei mesi scorsi, ma non abbassiamo la guardia. Sarà questo uno dei messaggi del Premier Conte nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, un invito a rispettare i divieti di assembramento e distanza ancora in vigore. Ma il messaggio principale sarà un appello al Paese a rialzarsi in modo condiviso dalla crisi economica. Raccogliamo l'invito del Capo dello Stato a collaborare, ha scritto ieri Conte, non sprechiamo energie a dividerci. E qui l'appello del Premier è anche alla sua maggioranza, alle prese con le divisioni sul MES, il nodo autostrade e soprattutto alla ricerca di obiettivi chiari per un piano di rilancio del Paese. Conte chiamerà alla collaborazione le forze economiche e sociali e tenterà di delineare gli obiettivi del programma di riforme e investimenti che l'Italia deve comunque presentare nei prossimi mesi a Bruxelles per accedere al Recovery Fund. Intanto il ministro degli esteri Luigi Di Maio incontra a partire da oggi i suoi omologhi francese, tedesco, sloveno e greco per convincerli a togliere ogni restrizione all'accesso dei turisti in Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Previsto invece per domani il tavolo sulla scuola, chiesto dal ministro di istruzione Azzolina per definire la riapertura delle scuole a settembre, un incontro che si annuncia abbastanza importante visto che giunge al termine del lavoro dei pareri due comitati che hanno fornito le linee guida per appunto la scuola. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso però dicevamo strade, aeroporti, autostrade, sentiamo com'è andata, in alcuni casi ci sono state code, tutto però sembra essere filato liscio nella prima giornata di ritrovata libertà per gli italiani. Sentiamo com'è andata a Milano e a Napoli. Al fischio dei treni in auto negli aeroporti aperti, l'Italia delle regioni riparte il 3 giugno, la data segnata sul calendario per il ritorno in quelle di origine al nord, al centro, al sud o per spostarsi per cercare lavoro o lavorare. Anche in metropolitana, dopo cali di oltre il 50%, i passeggeri sono di più rispettosi delle regole di distanziamento. Mascherine e pochi guanti ormai verso le stazioni ferroviarie Garibaldi e Centrale. Sono emozionati, arrivano controlli ai bagagli, tanti in attesa seduti o in piedi a distanza nei posti segnati da adesivi perché le stesse ferrovie hanno invitato ad anticipare i tempi per i controlli. Io sto andando a Bologna, dopo 3 mesi mi ricongiungo con il mio moroso, dovevamo sposarci quest'anno ma forse è tutto rimandato. A quando? Abbiamo pensato a settembre, però devo sposarmi tra 16 giorni. Più che vacanza sto tornando a casa, io sono calabrese, dall'inizio della pandemia, sì. E io sono un ballerino, quindi teatri, io dove lavoravo in crociera. I passeggeri vengono suddivisi tra regionali e lunga percorrenza dove si misura obbligatoriamente la temperatura sopra i 37,5, divieto di salire in treno, alta velocità o intercity. Primi viaggi fuori regione. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non risultano particolari criticità al momento nella stazione centrale di Napoli. Gli accessi ai binari sono suddivisi per tipologia di treni, in particolare per l'alta velocità e linee intercity. È prevista la misurazione della temperatura corporea. Chiaramente si consiglia di anticipare l'arrivo in stazione dati i tempi necessari per i controlli. È stata allestita anche una postazione gestita dalla Protezione Civile Regionale per chi arriva da fuori regione. Ieri sera il presidente De Luca ha emesso una nuova ordinanza che resterà in vigore fino al 15 giugno. Tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie della Campania con treni che effettuano collegamenti interregionali o all'aeroporto dovranno sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e in caso risultasse pari o superiore a 37,5 dovranno sottoporsi a test rapido Covid-19 o a eventuale tampone. Nessun allentamento sulle mascherine che saranno ancora obbligatorie in tutto il territorio regionale. Laura Viggiano, Radio 24, il Sole 24 Ore, Napoli. E sempre oggi ripartono anche i movimenti, i passaggi alle frontiere dei paesi europei, ma non per tutti i paesi allo stesso modo. L'Austria, per esempio, ha fatto sapere poco fa che non riaprirà per il momento il confine con l'Italia. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Alexander Schallenberg. E dopo le polemiche dei giorni scorsi per questa mancata reciprocità delle frontiere tra i vari paesi colpiti, a dire la verità, occorre ricordarlo, in misura differenziata dal Covid, il ministro degli esteri Di Maio, che aveva criticato duramente la posizione per esempio della Grecia di non aprire le frontiere all'Italia, ha annunciato un tour nelle varie capitali europee, Grecia inclusa. E adesso invece la pagina economica, perché anche per il mese di aprile, come era prevedibile, l'Istat misura l'effetto Covid sull'occupazione, c'è stato un calo di quasi 300.000 posti di lavoro. 400.000 occupati persi nei due mesi di lockdown, marzo e aprile, con il tasso di disoccupazione in flessione di quasi 3 punti e quello di inattività che aumenta in misura analoga. È la fotografia scattata dall'Istat che certifica per aprile, secondo mese di blocco delle attività, un effetto dell'emergenza Covid decisamente più marcato rispetto a marzo, con un calo di 274.000 occupati che coinvolge tutti, donne, uomini, dipendenti, indipendenti, di ogni età. Il tasso di disoccupazione scende al 6,3%, minimo da novembre 2007, quella giovanile al 20%, a causa della scarsità di opportunità di lavoro, ci spiega Roberto Monducci dell'Istituto di Statistica. L'impatto sul mercato del lavoro, almeno nei mesi del lockdown, era solamente scontato. Meno scontato era il calo della disoccupazione, quindi è prevalso l'aspetto legato alla mancanza di opportunità di lavoro. Adesso la partita si giocherà ovviamente sul mese di maggio. E nei mesi seguenti, quando in qualche modo ripartirà la domanda di lavoro. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora una notizia sul fronte coronavirus, accordo di collaborazione tra le aziende italiane Takis e Rotta Farm Biotech per lo sviluppo del vaccino contro il Covid. I test sulle persone sono previsti già in autunno. Per lo sviluppo del Covid-Vax, ideato dalla italiana Takis, si è fatta avanti un'altra azienda italiana, la Rotta Farm Biotech, che per la realizzazione del vaccino mette a disposizione non solo le sue risorse umane e tecnologiche, ma anche un consistente supporto finanziario, fino ad almeno il completamento delle prime due fasi dei test clinici. I primi 3 milioni di euro, anzi, sono già stati concordati sui programmi in corso. Il programma di sviluppo prevede ora il completamento degli studi di laboratorio e quindi la produzione del primo quantitativo del vaccino, per arrivare in autunno ai test sull'uomo. Il vaccino si basa sull'iniezione di un frammento del materiale genetico del virus nel muscolo, stimolando una forte reazione immunitaria, sia anticorpale sia cellulare, che previene l'infezione. L'efficienza del processo sarebbe aumentata dalla tecnica della elettroporazione, una tecnologia per la quale Takis collabora con un'altra azienda italiana, Igea, anche questa ovviamente coinvolta nella ricerca. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ci spostiamo a Roma, dove ci sono stati una serie di arresti per riciclaggio, coinvolto anche l'ex senatore Sergio De Gregorio. C'è anche l'ex senatore del Popolo delle Libertà Sergio De Gregorio tra gli arrestati nell'operazione della squadra mobile di Roma su un presunto giro di estorsioni e riciclaggio. 9 le misure cautelari eseguite nell'ambito dell'operazione denominata Pianeta Italia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma nei confronti di alcune società create per riciclare denaro e commettere estorsioni contro locali del centro della capitale. I 9 provvedimenti cautelari sono stati emessi dal GIP a carico di altrettante persone persone ritenute responsabili dei reati di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. Oltre alle misure cautelari, i poliziotti hanno eseguito anche il sequestro preventivo di circa 480.000 euro delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale che fanno parte del patrimonio di alcune società. Misura cautelare in carcere per l'ex senatore Sergio De Gregorio che, lo ricordiamo, venne eletto nel 2006 con l'Italia dei Valori, ma in seguito fu coinvolto nella vicenda della compravendita dei senatori nelle file del centrodestra. Fu lui stesso a confessare di aver ricevuto 3 milioni di euro da Silvio Berlusconi per passare al Popolo delle Libertà e contribuire così alla caduta del governo Prodi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora all'estero, andiamo negli Stati Uniti per fare il punto sul caos scoppiato nel paese dopo l'uccisione di George Floyd da parte della polizia. Nona giornata di proteste. Il coprifuoco ha limitato le violenze notturne negli Stati Uniti nel nono giorno di proteste per l'uccisione di George Floyd, ma la tensione resta molto alta. Manifestazioni si sono svolte finora in 140 città americane. Centinaia di arresti ieri a Los Angeles. A New York il coprifuoco ha limitato le violenze, i saccheggi nei negozi e gli scontri durante la notte, ma non i cortei popolari che si sono svolti durante la giornata. A Washington migliaia di persone hanno marciato pacificamente per chiedere giustizia. Tra i manifestanti c'erano molti studenti, ragazzi, mamme, famiglie e anziani che hanno avanzato verso Capitol Hill, la sede del Parlamento. Nonostante nella capitale siano stati schierati nelle ultime ore migliaia di soldati in tenuta antisommossa e dozzine di mezzi militari. Donald Trump è stato criticato da diversi leader religiosi per aver mostrato la Bibbia davanti alla chiesa dei presidenti di San Giovanni, che ha subito danni per gli incendi, e per essersi fatto fotografare davanti al monumento di Papa Giovanni Paolo. Il vescovo episcopale di Washington ha accusato Trump di usare testi sacri e un luogo sacro per incitare la violenza e fare campagna elettorale. Anche Papa Francesco ha detto che non si può tollerare o chiudere gli occhi davanti al razzismo, ma ha chiesto riconciliazione per gli Stati Uniti. Riccardo Ballam, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto insignire dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica un primo gruppo di cittadini che in diversi ruoli sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza coronavirus. Sono loro gli eroi della pandemia. Il presidente Mattarella ha voluto insignire dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica cittadini comuni con storie diverse, tutti accomunati dalla voglia di rendersi utili senza chiedere nulla in cambio. Riccardo Emanuele Tiritiello, studente, ha cucinato per medici e infermieri dell'ospedale Sacco. Irene Coppola ha realizzato a sue spese una mascherina trasparente per farsi capire dalle persone sorde. Pietro Floreno, malato da oltre 10 anni di SLA, ha donato il suo ventilatore polmonare di riserva. Mahmoud Lufti Guniem, in Italia dal 2012 rider, si è presentato alla Croce Rossa di Torino con 1000 mascherine acquistate di tasca sua. E infine Greta Stella, fotografa, che ha raccontato con le sue immagini l'attività quotidiana dei tanti volontari che queste medaglie vogliono rappresentare. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:13 minuti, facciamo una piccola pausa, effetto giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo da un primo bilancio di questa giornata di ripresa dei trasporti tra le regioni. Insomma, la libertà di spostamento implica anche che ci sia effettivamente una domanda di spostamento. Cercheremo di capire da questo indicatore quanto si stia effettivamente rimettendo in moto un paese fermo da 3 mesi. Poi scuole, sentiremo la voce di quegli insegnanti che dicono stop alla didattica a distanza, non se ne parli proprio a settembre, la scuola riapra ma la scuola vera, quella in presenza. 349 238 6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. In Italia libertà di spostamento su tutto il territorio, movimenti alle stazioni, code in autostrada verso Genova e agli imbarchi per la Sicilia. Effetto Covid sull'occupazione, l'Istat ad aprile segnala la perdita di quasi 300.000 posti di lavoro. Scuola oggi sciopero dei docenti, basta didattica a distanza, dicono, si investa per far tornare tutti in classe a settembre. Domani il tavolo Azzolina e Conte sulla riapertura, ne parleremo tra poco. Vaccino italiano, accordo tra la Takis e la Rottafarm, primi test sull'uomo in autunno. 13:17 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora, come anticipato, cerchiamo di fare un bilancio su questo, su come sta andando questa prima giornata di ritrovata libertà di spostamento, con tanto di offerta e domanda di mezzi di trasporto nel nostro paese. Ne parliamo con Andrea Giuricin, economista dei trasporti all'Università Milano Bicocca. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, grazie per aver accettato, Giuricin. Allora, diciamo che è chiaro che c'è un tema di, come dire, di possibilità di spostamento, di norme che adesso consentono la libertà di spostamento tra le regioni e tra l'altro anche dai paesi europei verso l'Italia e viceversa, con alcune limitazioni. Però c'è anche un tema di opportunità, immagino, cioè di quanto le persone, gli italiani in questo momento ritengano effettivamente opportuno riprendersi questa libertà, cioè se hanno delle motivazioni di lavoro con tutta la crisi che c'è stata, di turismo con tutti i timori che ci sono ancora, per effettivamente muoversi, insomma, quanti stanno decidendo di rimettersi in movimento, quanti invece rinunciano. Giuricin, quali sono i segnali di ripresa per quanto riguarda i vari mezzi di trasporto, i treni, gli aerei, ma anche insomma la rete autostradale, sia dal lato, diciamo, dello offerta che della domanda? Sì, assolutamente, è chiaro che stiamo parlando di un mercato che si sta riprendendo comunque lentamente. Arriviamo da un blocco quasi totale, sappiamo, del trasporto aereo, del trasporto a lunga percorrenza, e quindi la ripresa della domanda non sarà così veloce. Si può notare ad esempio che nei treni a lunga percorrenza c'è una nuova domanda, fra virgolette, c'è una domanda leisure, quindi meno legata agli spostamenti business, anche su percorrenze che di solito erano un po' meno diciamo attrattive fino a poco tempo fa. Dall'altro punto di vista stiamo vedendo che la domanda business invece fa più fatica a ripartire in questo momento, perché chiaramente anche le aziende devono capire bene quali sono realmente le necessità e quali sono realmente i rischi per i propri dipendenti. Quindi questo sicuramente fa capire che la situazione non è facile da analizzare. E poi sul trasporto aereo stanno rientrando, o almeno rientreranno, diciamo, da metà giugno in poi diverse compagnie che finalmente riporteranno un po' di offerta anche in Italia e porteranno di nuovo la concorrenza, che altrimenti vedremmo dei prezzi eccessivamente elevati. Per quanto riguarda il primo aspetto, possiamo immaginare che, insomma, la maggiore attrattiva del treno per viaggi, diciamo così, di piacere rispetto a tratte che normalmente si facevano magari in aereo intra Italia, immagino sia legata, come dire, ai minori timori, perché, diciamo, il treno dà una, come dire, lascia immaginare una libertà di reazione anche semplicemente, no? Maggiore rispetto alla chiusura più claustrofobica dell'aereo? Sicuramente c'è un aspetto psicologico. Il treno a quell'alta velocità è indubbiamente molto sicuro in questo momento, ma anche il trasporto aereo, bisogna essere sinceri, tutte le compagnie hanno preso tutte dei, diciamo, provvedimenti o comunque delle azioni per far sì che il viaggio sia sicuro. È chiaro che qua c'è il tema del distanziamento sociale a bordo dei mezzi, e questo è un tema, secondo me, non tanto solo italiano quanto un tema europeo che deve essere risolto, perché ad oggi l'Italia è l'unico paese che adotta, diciamo, queste misure, almeno per quanto riguarda l'aereo, e anche per il treno ci sono ben pochi paesi che adottano queste misure. Quindi, cioè, noi adottiamo misure più restrittive che negli altri paesi? Se prendiamo ad esempio l'esempio del trasporto aereo, sì. Distanziamento di un metro ad esempio non esiste negli altri paesi, esiste una raccomandazione da parte dell'EASA, che è, diciamo, l'agenzia della sicurezza del trasporto aereo a livello europeo, che dà delle raccomandazioni, che ha detto sia le mascherine, il distanziamento laddove è possibile si può fare, ma se chiaramente c'è la domanda che tenderà a riaumentare, quindi i posti saranno un po' più pieni, quindi gli aerei saranno un po' più pieni, è chiaro che questo distanziamento non è fattibile da un punto di vista economico, perché le compagnie aeree, così come anche le compagnie ferroviarie, con un load factor più basso chiaramente non riescono ad essere profittevoli. C'è stato un allarme, ecco, proprio della IATA. Giuricin, da questo punto di vista possiamo immaginare che, come dire, la maggiore rarefazione che io mi posso trovare su un volo, dove le precauzioni sono a metro di distanza, quindi mettiamo un posto sì, un posto no, me la ritrovo però caricata sul prezzo, sulla tariffa di questo volo. Come stanno reagendo le tariffe? Perché la grande preoccupazione di molti è anche proprio quella di ritrovarsi biglietti, costi dei biglietti molto molto aumentati. È così? Stanno aumentando o no? Allora, il temi sono due: sicuramente costi maggiori dovuti a sanificazione, a minore utilizzo degli aerei, pensate a procedure di imbarco molto più lente. È chiaro che l'utilizzo inferiore dell'aereo, dovuto anche a questo, porta dei costi aggiuntivi, lo stesso vale anche per i treni, quindi sicuramente ci sono dei costi superiori per gli operatori. Dall'altro punto di vista, l'altro elemento da tenere in considerazione è la concorrenza. Laddove c'è forte concorrenza, i prezzi tenderanno a scendere. Abbiamo visto proprio in questi giorni, comunque in questi primi giorni di giugno o anche a fine maggio, come i prezzi invece fossero molto alti perché non c'era concorrenza nel trasporto aereo, ad esempio. Quindi la grande variabile è se entreranno tutti questi nuovi operatori, verrà eliminato il distanziamento di un metro a bordo degli aerei, a bordo dei treni e via dicendo, chiaramente i prezzi potranno scendere e chiaramente potranno entrare più operatori, e più operatori significa più concorrenza e prezzi ancora più bassi. Quindi ad oggi non è possibile, diciamo, dare una stima di quanto e se le tariffe siano effettivamente aumentate. Questo, diciamo, è un momento di passaggio, le dice Giuricin, e quindi è difficile dire, perché fino ad oggi c'è stata poca concorrenza, quindi immagino tariffe più alte. Da adesso in poi, da metà giugno, molte compagnie riapriranno quasi tutte le rotte. E lei cosa si aspetta? Che i prezzi, diciamo, torneranno ai livelli di prima della crisi o saranno comunque un po' superiori? Allora, dipenderà molto dalle strategie delle diverse compagnie. Alcune compagnie hanno già avvisato che saranno molto aggressive sui prezzi per prendersi quote di mercato. Quindi se molte compagnie agiranno in questa direzione, ci possiamo aspettare che i prezzi possano non essere superiori. Però è chiaro anche che laddove resistano dei monopoli, teniamo conto che probabilmente quest'estate avremo il 50% del traffico o anche meno rispetto a quell'estate scorsa. Quindi laddove resistono, diciamo, dei monopoli, ci sarà una sola compagnia ad operare, c'è il rischio, c'è il serio rischio che i prezzi possano aumentare. Quindi la grande discriminante secondo me sarà proprio questa. Bisogna fare attenzione, bisogna far sì che ci sia la più concorrenza possibile sul mercato per favorire chi si deve spostare sia per motivi, diciamo, di lavoro, che chi si deve spostare per altri motivi altrettanto validi. Giudici, in prima di salutarci, un flash davvero su Alitalia. Alitalia esiste ancora, c'è una nuova compagnia annunciata proprio per i primi di giugno, diciamo interamente a capitale pubblico, con un investimento anche qui annunciato di 3 miliardi, utili per fare cosa? Utili in realtà bisogna capire per fare che cosa, cioè la nazionalizzazione dal mio punto di vista è rischioso perché significa distorcere il mercato, distorcere il mercato significa avere meno concorrenza e quindi avere meno concorrenza significa andare contro il consumatore che ha bisogno della concorrenza per avere più operatori affinché i prezzi poi possano scendere come dicevamo prima. Quindi a mio parere sarebbe bene investire questi soldi sugli aeroporti, sul trasporto aereo, sulle compagnie aeree per cercare di rilanciare tutto il settore, non una singola compagnia. Tutto il settore, ricordiamo che equivaleva a 161 milioni di passeggeri l'anno scorso, quindi un settore estremamente importante. Grazie, grazie Andrea Giuricini. Grazie a voi. Allora, questa è la situazione per quanto riguarda, diciamo, una panoramica sulle prime reazioni nel settore dei trasporti, treni, aerei e quant'altro. Adesso, sempre in questa, su questo argomento, ci spostiamo in Sicilia perché inaspettatamente ci sono stamattina trovate code agli imbarchi verso la Sicilia. Sentiamo com'è andata. Nino Amadore. La coda c'è, e anche troppa. C'è gente che si è messa in attesa per attraversare lo stretto di Messina sin dall'alba, ma non a Villa San Giovanni, come si potrebbe immaginare in questo primo giorno di apertura della Sicilia agli arrivi da altre regioni. La coda si è formata a Messina, agli imbarcaderi della Caronte, con il piazzale antistante l'imbarco pieno e lunghe code. Un fatto inaspettato che ha costretto la società che gestisce il traghettamento sullo stretto a intervenire con il rafforzamento delle corse. Maggior flusso di passeggeri sicuramente legato alla nuova ordinanza della regione siciliana che ha abolito l'autocertificazione e l'obbligo di quarantena per chi raggiunge la Sicilia da altre regioni. Restano anche nell'ultima ordinanza regionale le disposizioni per i cittadini riscontrati positivi al Covid-19 che hanno l'obbligo di comunicare le proprie condizioni di salute al medico di famiglia e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Messina. E adesso, come anticipato, parliamo di scuola. Domani è convocato un nuovo tavolo dal ministro Azzolina con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e non so quali altre, diciamo, quali altre autorità competenti. È importante questo tavolo perché i due comitati, quello dell'Azzolina e il comitato tecnico scientifico, hanno entrambi fornito le loro linee guida. Il comitato con un parere di 60 pagine, di cui abbiamo parlato fine settimana scorsa, dove si prevedono varie cose, tra cui le tre offerte formative: didattica in presenza, didattica a distanza e materie alternative con orari ridotti a un minimo di 40 minuti per, diciamo, con questa rotazione favorire la rarefazione all'interno delle classi che saranno probabilmente smezzate. E poi il CTS, che ha dato le sue linee guida parlando di un forte distanziamento che però preoccupa presidi e insegnanti, perché dicono in molte scuole questo distanziamento non si riuscirà a garantire. Oggi c'è una notizia: un gruppo di insegnanti ha fatto una sorta di astensione, una sorta di sciopero dalla didattica a distanza, l'unica forma di didattica attiva in questo momento. Che gli chiediamo perché. È con noi Costanza Margiotta, promotrice del comitato Priorità alla Scuola. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Gruppo? Sì, prego. No, stavo dicendo, lei è docente di filosofia e diritto all'Università di Padova, è promotrice di questo comitato Priorità alla Scuola. Voi avete già fatto un appello un po' di tempo fa che ha raccolto molte adesioni e, se ho capito bene, in sostanza dite basta didattica a distanza, la scuola torni il prima possibile in presenza e per tutti. Veniamo però intanto al motivo di questa protesta di questi giorni, di oggi. Esatto. Allora, il comitato Priorità alla Scuola ha sostenuta quella che può essere definita un'astensione della didattica a distanza, che è stata promossa, direi, in questo caso più da genitori e studenti, con l'adesione ovviamente di alcuni insegnanti, ma come voi sapete i tempi dello sciopero sono diversi dai tempi dell'astensione. Noi abbiamo appoggiato questa astensione che si è diffusa a macchia d'olio in tutta Italia, è partita anche questa da Firenze, da cui anche il comitato Priorità alla Scuola, insomma, ha preso vita, e si è però diffusa in tutta Italia. L'idea è di fare un gesto simbolico col quale si dà un avvertimento per domani, per capirsi, per settembre. Non abbiamo nessuna intenzione in nessun tipo di scuola, di nessun ordine e grado, di continuare con la didattica a distanza. Noi ripetiamo alla ministra quello che abbiamo già chiesto il 18 aprile in una lettera, il 23 settembre da 19 piazze italiane, un ritorno a settembre in sicurezza per tutti, ma soprattutto in presenza. Ci vogliono risorse, non può deresponsabilizzarsi facendo ricadere la responsabilità su ogni istituto scolastico, per cui appunto i presidi hanno già messo le mani avanti, poveretti, dicendo noi non siamo nelle condizioni di riaprire. Sì, perché la questo effettivamente va detto, dottoressa Margiotta, che effettivamente c'è questo rischio di questo cortocircuito, perché spieghiamo, ci sono le linee guida, ci saranno le decisioni del ministro, politiche, poi c'è l'autonomia scolastica. È già stato detto anche dal comitato Azzolina che alla fine poi saranno le singole scuole con questa autonomia a doversi in qualche modo organizzare per ottenere questo distanziamento, e questo puzza un po', uso un'espressione non elegante, ma come dire, di scarica barile. I fondi stanziati, ricordo soltanto questo, per la ripartenza a settembre sono pochi, oggettivamente sono 330 milioni, per riaprire le scuole a settembre non sembrano moltissimi. Poi ci sono le stabilizzazioni dei precari, qualche assunzione in più, ma sono cose che entreranno in funzione più avanti perché i concorsi prenderanno tempo. Però io le chiedo, avete delle proposte per far quadrare questo cerchio del ripartire tutti a settembre, che allora, credo sia una richiesta che anche i genitori vorrebbero, però mantenendo, come dire, delle garanzie minime di fattibilità. Esatto, qui il punto è molto chiaro, ci vogliono risorse straordinarie perché sia possibile per tutti, da Aosta a Palermo, perché qui il rischio è quale? Che venga discriminato all'interno della stessa categoria di soggetti qualche studente che non avrà garantito il diritto all'istruzione in presenza. Non esiste, il diritto va garantito a tutti allo stesso modo. Questo prevede per forza delle risorse straordinarie. Domani nel tavolo, nella cabina di regia, la chiamino come le pare, dove c'è il governo, la ministra, i sindacati, l'ANCI e alcuni rappresentanti di famiglie e alcuni rappresentanti di terzo settore, devono ottenere più risorse. Però risorse, Margiotta, per fare che cosa? Però veramente flash, perché per capire. Flash. misure di prevenzione sanitaria nelle scuole hanno già impedito che ci sia il controllo, ad esempio, della febbre, che è una delle cose che viene fatta in tutte le fabbriche, per fare un esempio. Investire in spazi adeguati, tu devi dare alle singole scuole i soldi per poter affittare eventualmente degli spazi questo adeguati. Mi sembra un tema importante, esatto. Cioè, se una scuola non ha uno spazio, il comune non le offre uno spazio in più, deve esserci la possibilità di andare sul mercato anche e affittare una palestra. C'è il problema della didattica mista, che alcuni rimarranno a didattica a distanza, altri un po' e un po'. Bisogna aumentare massicciamente il personale docente e il personale ATA per un anno scolastico intero. Cui è inutile che far ricascare la responsabilità, diciamo, sul locale. Si deve assumere una responsabilità il governo e la ministra per fare rientrare tutti. Deve trovare i mezzi e i modi. Quello è il suo lavoro, non il mio. Il mio lavoro di Costanza Margiotta è stata soltanto prendere consapevolezza prima degli altri che questo era l'unico paese in cui non si era messa la scuola tra le priorità. E infatti siamo in ritardo, non c'è più tempo. Va bene, assolutamente. Grazie Costanza Margiotta, grazie per essere stata con noi. Vedremo domani a questo tavolo se darà risposte a questo genere di domande, o quantomeno comunque alla domanda di tutti gli italiani, che è quella: quando riapriranno, come le scuole, visto che a questo punto mi unisco a quello che stava dicendo la docente, riaperto tutto in Italia tranne le scuole. 349-238-6666. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. In Italia libertà di spostamento su tutto il territorio, movimenti alle stazioni, code in autostrada verso Genova e agli imbarchi per la Sicilia. Effetto Covid intanto sull'occupazione, l'Istat segnala ad aprile la perdita di quasi 300.000 posti di lavoro. Scuola, oggi sciopero dei docenti, basta didattica a distanza, si investa per far tornare tutti in classe a settembre. Sanità, ecco il piano MES da 20 miliardi, il ministro della Salute Speranza punta a raccogliere i fondi europei per potenziare gli ospedali e le cure sul territorio, ne parliamo tra poco. 13:38 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E allora, intanto c'è un'ultima ora, una notizia di poco fa, a proposito, sapete che oggi pomeriggio ci sarà un nuovo intervento di Conte. Ieri c'è stata una manifestazione, un intervento di Conte per annunciare, come dire, sottolineare l'avvio di questa che possiamo definire a tutti gli effetti la fase 3. C'è stata ieri la manifestazione, in parte anche della discordia, perché qualcuno ha sottolineato l'eccesso di assembramenti da parte dei presenti, manifestazione del centrodestra. C'è una dichiarazione di poco fa di Salvini che vi voglio leggere. Per molti il problema, dice Salvini, è la cassa integrazione la settimana prossima. È fondamentale pensare al medio e lungo termine, ma è prioritario pensare a chi non ha lo stipendio la settimana prossima. Sentiamo anche questa mattina ai microfoni 24 mattina Antonio Tajani a proposito, diciamo, della posizione leggermente diversa di Forza Italia, che si dice comunque pronta a collaborare. Abbiamo sempre risposto positivamente all'appello del Capo dello Stato all'unità, unità che non significa confusione di ruoli, ma unità di intenti per cercare di far uscire l'Italia dal momento difficile. Lo abbiamo fatto fin dall'inizio, Forza Italia è sempre stata disponibile, abbiamo partecipato a tutte le riunioni con il governo, con la maggioranza, abbiamo dato la nostra massima disponibilità a togliere qualsiasi atteggiamento che potesse apparire ostruzionistico. Però ecco, poi staremo a vedere poi se questo dialogo tra la maggioranza e l'opposizione effettivamente decollerà come da più parti evocato, soprattutto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Adesso invece, come annunciato dai titoli, un approfondimento che è la prima pagina del Sole 24 Ore di oggi. Sanità, ecco il piano MES da 20 miliardi, ne parliamo con Marzio Bartoloni. Ciao Marzio, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori. Collega del Sole 24 Ore che appunto firma questa apertura, questi articoli dedicati appunto a questo piano. Si tratta di un piano appunto, come voi scrivete, insomma, auspicato dal Ministro della Salute Roberto Speranza per utilizzare ci sarebbe da attivare i fondi del MES, il piano salva stati autorizzato in questa fase dall'Europa per finanziamenti e prestiti a tassi particolarmente agevolati ma finalizzati alle spese sanitarie. Di che piano si tratta? E poi c'è anche, Marzio, la questione politica che affronteremo magari tra un attimo, del fatto se effettivamente il governo è pronto a fare questa richiesta, perché all'interno, sappiamo, del governo il Movimento 5 Stelle è fino ad ora si è detto contrario a richiedere il MES. Sì, esatto, diciamo che a parte l'ostruzionismo dei 5 Stelle, quello che sappiamo è che il Ministero della Salute, il Ministro Speranza, ha aperto il dossier MES o in alternativa proverà a prenotare una fetta dei fondi del Recovery Fund se appunto questo maxi fondo da 170 miliardi partirà. Però intanto c'è il MES a disposizione e che, come dicevi te giustamente, garantisce dei prestiti però con interessi molto più vantaggiosi di quelli sul mercato. Sui 36 miliardi a cui potrebbe attingere l'Italia, diciamo, ci costerebbe di meno di interessi circa 700-800 milioni. E questo piano parte da due capisaldi, cioè un potenziamento degli ospedali e un potenziamento del cosiddetto territorio delle cure a casa, che sono state la vera spina nel fianco durante questa emergenza Covid, dove forse l'errore più fatale che è stato commesso, soprattutto in alcune regioni, è stato quello di aspettare i pazienti in ospedale invece di trattarli a casa precocemente. Quindi questi sono, diciamo, i due capisaldi di questo piano a cui si sta lavorando e che dovrebbe cubare almeno 20 miliardi dei 36 a disposizione del MES. Ecco, tu dicevi, giustamente ricordavi, questi 36 miliardi o, diciamo, complessivamente potrebbero costarci 700-800 milioni di interessi. Uno potrebbe dire, beh, insomma, c'è un costo perché sono prestiti, però tu giustamente ricordavi è un costo minore di quello che si affronterebbe con l'indebitamento classico, che è il metodo attraverso il quale in Italia si finanzia buona parte, soprattutto in questo periodo di crisi, delle entrate anche fiscali, no? La buona parte della spesa pubblica. 20 miliardi però sarebbero delle una tantum, perché o sbaglio, a fronte però di Marzio, come dire, investimenti che dovrebbero diventare strutturali, perché se abbiamo capito bene, assumere in modo stabile gli oltre 20.000 tra medici e infermieri, per esempio, che si sono assunti nella fase, diciamo, critica del Covid nei mesi scorsi come precari, vuol dire poi caricarsi un costo strutturale. Questi 20 miliardi basterebbero a che cosa, in base ai tuoi conti, i tuoi calcoli? No, tu giustamente hai sottolineato la parte del personale, lì in effetti la spesa si spalmerebbe per più anni e quindi diventerebbe, diciamo, non investimento diciamo in un colpo solo, ma poi peserebbe sulla spesa pubblica per più anni. Però è indubbio, diciamo, che il punto di partenza sarebbe quello delle strutture, cioè c'è tutto un parco ospedaliero da rimodernare, da ristrutturare anche alla luce dell'emergenza che stiamo vivendo tuttora, e un parco tecnologico sanitario da ristrutturare e soprattutto potenziare quelle cure a casa, che non significa soltanto il medico o l'infermiere. Tra l'altro proprio nel decreto di lancio si sperimenta, si fa un assaggio di queste cure a casa con l'assunzione di 9.600 infermieri di famiglia che andranno appunto ad assistere gli italiani a casa. Ecco, l'idea è anche di creare delle strutture sul territorio, mi viene da pensare alla Germania che ha ambulatori sul territorio, noi per esempio abbiamo sperimentato case della salute, eccetera. Queste strutture sul territorio con medici, infermieri, servono a trattare pazienti fragili, anziani, ma in un'emergenza come il Covid, per esempio, sarebbero stati necessari per aiutare i malati di Covid magari ai primi sintomi. Marzio Bartoloni, l'ultima cosa, su quanto, diciamo, abbia assorbito in termini di spesa pubblica la sanità in questi anni si è molto detto, perché effettivamente, diciamo, la spesa complessiva è continuata quasi sempre in tutti gli anni a salire, però rincorrendo i nuovi bisogni derivati soprattutto dall'invecchiamento della popolazione, tanto che si è parlato soprattutto di mancati nuovi investimenti previsti. Quanto l'Italia avrebbe bisogno di questi soldi per mettere in sicurezza il sistema sanitario, che in questa fase è sicuramente retto, ma ha dato anche, come dicevi tu, ha mostrato il fianco a una serie di criticità? Sì, assolutamente sì, anche perché poi Se andiamo a vedere quanto spende l'Italia in percentuale al PIL, noi siamo ben sotto la media dell'OCSE, ben sotto gran parte dei paesi, la Francia, non parliamo degli Stati Uniti, la Germania, che per esempio, soltanto per parlare dell'emergenza Covid, aveva il triplo dei posti letto in terapia intensiva. Quindi indubbiamente potrebbe essere un'occasione storica per, come dicevi te, mettere in sicurezza un'infrastruttura, perché questo è il Servizio Sanitario Nazionale, un'infrastruttura fondamentale che poi alla fine anche aiuta il PIL e l'economia, perché la salute è la prima necessità. Abbiamo visto adesso un'emergenza come questa che impatto ha sull'economia, quindi questa forse è un'occasione storica. E nonostante appunto ci sia questo ostruzionismo ai 5 Stelle, in realtà la gran parte dei partiti della maggioranza spingono per approfittare del MES. Staremo a vedere già in questo mese come andrà a finire. Staremo a vedere, grazie Marzio Bartoloni. 13:46, facciamo un piccolo break, poi torniamo come sempre con Giulia Crivelli e Effetto Mondo.